con Amedeo Bacigalupo di Cloud9 che lo distribuisce. Parliamo del film Red Zone di Trevor Nunn al cinema da Buongiorno. giovedì 9 maggio 2019. Amedeo, ben trovato. Trovati a voi e grazie di questo spazio. Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta? No? Allora, molto brevemente, il film racconta la storia di John Stanley, che è un'anziana signora che vive nella sua villetta in periferia a Londra, vive una tranquilla pensione. Una bella mattina irrompono nel suo appartamento un gruppo di agenti dell'MI5 per arrestarla. L'MI5, per intenderci, è l'equivalente inglese del nostro SISDE, ecco. Ci sono dei forti sospetti che John Stanley sia in realtà una spia del KGB che a cavallo fra gli anni 30 e 40 ha passato all'Unione Sovietica i progetti segreti per la costruzione della bomba atomica e quindi viene arrestata e portata negli uffici dell'MI5 per essere sottoposta ad un serrato interrogatorio, e da quel momento in poi il film procede su due binari temporali paralleli, quindi il serrato interrogatorio con tutte le conseguenze giuridiche e dello scandalo che scoppia a seguito di questa scoperta e il passato, quindi il flashback, cosa è successo realmente quando Joan era una giovane promettente studentessa di fisica quantistica a Cambridge e ha incontrato un giovane militante, un altrettanto giovane militante di sinistra che le ha cambiato di fatto il suo sguardo sul mondo. Il film è una, diciamo, avvincente spy story, è un'appassionante storia d'amore e anche un film che racconta in maniera molto tenera, secondo me, un rapporto fra un'anziana madre e un figlio. E personalmente è la parte che mi ha, diciamo così, intenerito di più perché spesso e volentieri noi non sappiamo veramente chi erano i nostri genitori quando erano giovani, quando, che cosa facevano. E quindi questa è la parte che mi ha, come ripeto, emozionato di più. Però c'è anche molto altro nel film. E il film uscirà il 9 di maggio in 180 copie più o meno in tutta Italia. Come lo avevate incontrato il film? Al Festival di Toronto del 2018, dove è stato presentato in concorso, e ci è molto piaciuto perché è una storia classica, ma nello stesso tempo molto originale, cioè una pagina di storia inglese che nessuno conosceva. In realtà è una storia vera. È una storia vera perché questa, la figura di John Stanley è stata ispirata da una figura che è realmente esistita, che si chiama, questa signora si chiamava Melita Norwood, che fu arrestata effettivamente nel 2000, quando era ottantenne appunto, ed è stata sottoposta a questo procedimento, diciamo, giuridico, questo, diciamo, accusa di 27 reati, fra cui alto tradimento, proprio perché è venuto fuori che era una spia del KGB negli anni 40. Poi non fu, di fatto arrestata per l'età avanzata. Però è stato un personaggio che in Inghilterra è diventato una sorta di personaggio feticcio, la chiamavano la nonna spia, e quindi è una storia molto curiosa, molto emozionante. Secondo me due sono gli elementi di spicco del film. Da una parte, chiaramente, la grande prova d'attrice, e l'altra, le motivazioni che stanno alla base della sua scelta. Esattamente, perché c'è un dilemma etico Sì. ed è una, diciamo, un aspetto del film molto interessante, perché lei ad un certo punto dice, ma diciamo, dopo aver partecipato di fatto alla progettazione della bomba atomica, dopo aver visto la devastazione che questa bomba atomica aveva causato a Hiroshima e Nagasaki, si chiede, ma come posso fare perché questo non accada mai più? L'unico modo è passare i segreti i progetti segreti di realizzazione della bomba atomica anche all'altro blocco per creare un equilibrio, perché se tutti e due i blocchi, Occidente e Oriente, insomma nello specifico l'Unione Sovietica e l'America, sapranno costruire una bomba atomica e costruiranno una bomba atomica, nessuno dei due la utilizzerà perché avrà paura chiaramente delle ripercussioni. E quindi in effetti, cioè come darle torto, in effetti noi abbiamo vissuto per 50 anni con un grappolo di missili puntati su New York, su Washington, e un grappolo di missili puntati su Mosca, e nessuno dei due blocchi li ha mai utilizzati. proprio per paura delle eventuali ripercussioni. Chissà, magari senza Melita Norwood forse sarebbe stata sganciata una bomba atomica su Mosca, boh, non lo sapremo mai, però insomma, di fatto, per fortuna, Hiroshima e Nagasaki rimangono gli unici episodi in cui un ordigno atomico è stato realmente utilizzato. Amedeo, che uscite ha avuto all'estero finora? Allora, finora il film è chiaramente uscito in Inghilterra, dove è ancora nelle sale, è uscito il 19 di aprile, sta andando ancora molto bene, sta resistendo in maniera egregia alla onda anomala di Avengers e fino a questo momento ha incassato all'incirca 2 milioni di sterline ed è uscito anche in America, dove è uscito in quello che in gergo si chiama limited release, cioè in America escono i film di, tra virgolette, qualità, escono prima in un numero molto ristretto di copie per poi allargarsi e in questo momento è fuori con 45 copie ed è arrivato a 500 mila dollari più o meno, che è un risultato molto buono. In Europa, oltre all'Inghilterra, è uscito in Spagna, dove sta arrivando a 1 milione di euro, quindi è un risultato, insomma, si sta difendendo molto bene. Speriamo che faccia lo stesso anche in Italia. Del regista Trevor Nunn, cos'altro sappiamo? È un regista principalmente teatrale, lui è stato il più giovane direttore artistico della Royal Shakespeare Company, è stato direttore del National Theatre a Londra, in Inghilterra, e diciamo, ha curato l'allestimento e la regia di una cinquantina di spettacoli che vanno da Shakespeare a Sunset Boulevard, quindi lui è proprio un'icona nel teatro inglese. Poi in cinema in realtà lui ha esordito diversi anni fa, nel 75, con un film che mi sembra si chiamasse Il misterioso caso della signora Gabler con Glenda Jackson, e quindi questo film segna un po' il suo ritorno alla regia cinematografica e per questo c'è stata una grande attesa per questo film in Inghilterra, oltre chiaramente alla prova di attrice di Judi Dench, che interpreta chiaramente John Stanley da anziana. In Italia in quante sale sarà? Beh. In Italia uscirà in 180 copie su tutto il territorio, e quindi una buona uscita. Sì. E allora ricordiamo il film Red Zone di Trevor Nunn al cinema da giovedì 9 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Amedeo Grazie a Bacigalupo voi. di Cloud9 che lo distribuisce. Amedeo, un Grazie a abbraccio e voi. in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, viva il lupo e grazie mille ancora di questo spazio. A presto. Ciao.